Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità. Superiore. Quando risponde deve dire superiore. Io non lo sapevo, superiore. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì. Scusi, secondino. Secondino, una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale. Non si fa educare le persone. È invivibile comunque. Quando uno c'ha paura. Sempre spiato. Paura. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. È invivibile comunque. Trovo ad essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo. Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor. Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora. E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, e libertà per tutti e tutte ovviamente. Questa è la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Sono le 15:07 minuti e oggi è mercoledì 12 di novembre. Dunque, ancora si è parlato molto questa settimana su molti giornali, riviste, su internet, sul web dell'internet, della vicenda di Stefano Cucchi, e da più parti si grida, sono state senza molta differenza tra una parte e l'altra, da molte parti si urla la parola vogliamo giustizia. Però guarda caso questa parola giustizia nei confronti della assoluzione dei medici condannati in primo grado per la morte di Stefano Cucchi e della non condanna né in primo né in appello, né in primo grado né in appello delle guardie carcerarie che avevano portato Stefano Cucchi, appunto, che tenevano in consegna Stefano Cucchi, queste assoluzioni fanno urlare appunto giustizia per Cucchi, che vuol dire però cerchiamo di condannarli. Ora, e quindi c'è stato l'incontro col della famiglia Cucchi con la presidenza del Senato, che è la seconda carica dello Stato. Dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato. Nel caso si dovesse, diciamo, assentare, sentir male il Presidente della Repubblica, ossia Napolitano, attualmente il Presidente del Senato prende il suo posto. Quindi è una figura importante. Grasso ha ricevuto i familiari, quindi come, insomma, dare un sostegno della parte più alta delle istituzioni, un sostegno alle lamentazioni della famiglia Cucchi, che dice appunto non abbiamo avuto giustizia. Però in tutti, e quindi anche lui ha detto vedremo di far riaprire il processo, vedremo di mettere in moto altre indagini, eccetera. Però in quasi tutti il problema, il dato, come dire, il grido vogliamo giustizia per Cucchi si trasforma in vogliamo mandare qualcuno in galera. Ora io chiaramente non abbiamo nessuna simpatia né per le guardie che hanno picchiato Cucchi, né per i medici che non l'hanno curato, e insomma, così come per tutti gli altri, Aldo Grandi, che dire, le mille persone, tantissime persone che in mano delle forze dell'ordine sono stati, hanno avuto rubata, oltre tutto il resto, anche la propria vita. Ma il problema deve essere affrontato da un altro punto di vista. Non chiedere la giustizia, volere giustizia per Stefano Cucchi, per Aldo Bianzino, per Federico Aldovrandi e così via, non deve essere una richiesta di mandare in carcere qualcuno, ma deve essere una richiesta che questi fatti non succedano più. E allora, come diciamo l'altra volta, qual è la strada da intraprendere perché non avvengano più i casi di maltrattamenti che a volte, se non finiscono con la morte della persona sottoposta a maltrattamenti, nemmeno diventa una notizia, perché a volte non esce sui giornali, specialmente se sono immigrati, lo sapete, ne sono tantissimi gli immigrati presi dalle forze dell'ordine, bastonati, insomma, maltrattati, eccetera, e che se non muoiono non è una notizia. Se uno muore, invece, diventa una notizia, perché anche nel caso di una persona diciamo immigrata deve essere, si fa la denuncia e tutto il resto. Tutti quelli maltrattati altrettanto fortemente, ma che per fortuna loro non muoiono, è chiaro che la notizia non diventa notizia, un fatto. Però i maltrattamenti ci sono, e sono tanti. E non è che mandando in galera però tre guardie che hanno fatto Stefano Cucchi o Aldo Grandi, che si vuole pure riaprire il processo, insomma, e i tanti altri uccisi nelle mani delle forze dell'ordine, potremmo fare in modo che non succedano più. Per fare in modo che non succedano più questi fatti, bisogna percorrere tutta un'altra strada, perché il gridare galera galera, anche se cambiano i soggetti si vorrebbe andare in galera, nel caso di Stefano Cucchi i medici che non l'hanno assistito a dovere e gli agenti che l'hanno pestato e eventualmente altri, nel caso di Aldo Grandi quelli che l'hanno fermato per strada e schiacciato per terra come fosse una lucertola e così via, non è che mandando in carcere quelli per poco o tanto tempo si risolve il problema del rapporto tra i cittadini fermati e le forze dell'ordine che li fermano. Anzi, gridando galera per quelli, poi ci stanno altri che gridano galera per i potenti, che non andranno mai in galera, altri stridano galera per i Rom, alcuni stridano galera per gli immigrati, alcuni stridano galera per altri. Alla fine emerge soltanto un grido da questa triste popolazione, perché è veramente triste, non il paese in generale, proprio la gente, noi siamo tristi, perché ogni problema che abbiamo lo risolviamo gridando galera. Casomai cambia il soggetto che vogliamo mandare in galera, appunto noi picchiatori che massacrano la gente, qualcuno dirà ma è giusto, altri i Rom perché dicono che rubano, non si sa mai nemmeno se è vero, però questo è un pregiudizio e funziona, gli immigrati perché sporcano e così via, insomma. E il problema del grido galera, qualunque sia il soggetto che si vuole mandare dentro, diventa un urlo unificato in maniera miserabile, perché produce quello che ha riempito il carcere negli ultimi 10-15 anni, ossia quello che si dice questa ventata forcaiola. Il termine forcaiolo si intende dire che qualunque problema aggredisce le persone, le popolazioni, soprattutto quelle più povere, l'urlo forca, cioè galera, anticamente si urlava forca, anticamente i re, soprattutto successe in Francia prima della rivoluzione francese, i re, ma anche in Inghilterra, ma anche un po' in tutti i paesi, quando c'erano le monarchie col pugno di ferro, quando le cose andavano male perché c'era stata una carestia, appunto l'economia allora andava, c'era una crisi ogni 3 anni, ogni 2 anni permanente, la fame, le carestie, insomma, la gente moriva di fame come fossero le formiche, e le formiche quando le schiacci, chiaramente. Bene, e a quel punto i regnanti dovevano trovare un responsabile. Non dicevano, ovviamente, non siamo in grado di governare, men che meno l'economia. Non lo dicevano nemmeno tutti gli intellettuali che li circondavano, perché per mantenere quel posto dovevano dire è vero, la colpa è, e lì si dava la colpa, e in genere con quel meccanismo si sviluppavano le guerre. Spesso la colpa si dava al vicino. Allora gli inglesi la davano ai francesi, i francesi agli inglesi, i tedeschi ai francesi, i francesi ai tedeschi, e così via, no? E questo, per esempio, in questa parte del mondo, l'Europa, di cui conosciamo bene la storia, ha scatenato le enormi guerre che hanno sterminato la popolazione e impoverito ancora di più quelli che già erano poveri. Ma è successo anche in altri posti, per esempio tra Cina e Giappone. Anticamente c'era qualunque cosa andava male in uno dei due paesi, si diceva che la colpa era dell'altro, e viceversa, così come tra l'India con i paesi limitrofi. Insomma, dappertutto è abbastanza, purtroppo questa è una malattia, chiamiamola così, diffusissima tra il genere umano, ma soprattutto tra i sistemi, che però poi si attacca facilmente alla popolazione perché non ha capacità di ragionare autonomamente, non ce l'ha proprio questa capacità, ha dimostrato che non ce l'ha, ancora non ce l'ha, noi speriamo, noi anzi siamo sicuri che arriverà le persone ad avere, singolarmente e collettivamente, ad avere una capacità di ragionamento autonomo, però oggi abbiamo verificato che non ce l'ha assolutamente, nemmeno situazioni molto vicine a noi, perché abbiamo detto il problema, la situazione di Cookies sta diventando richiesta di galera. Si unisce a quelli di Tor Sapienza che chiedono galera per gli immigrati, si unisce a quegli altri imbecilli che chiedono galera per Roma, insomma è tutto, e viene tutto come diciamo prima, un urlo unico demenziale, e però che il potere utilizza per non affrontare i problemi reali. Cosa invece ci dovrebbe insegnare il caso di Stefano Cucchi? È quella mobilitazione, perché la gente giustamente c'era molti amici e le persone sono indignate. Come si deve indirizzare questa indignazione perché abbia un senso? Semplicemente questa. Due sono le strade da fare: una verso le istituzioni, chiedendo che venga abrogato la legge, il testo, quella parte del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che consentono agli agenti di pubblica sicurezza, a chi svolge funzioni di pubblica sicurezza, siano essi polizia o carabinieri, a tenere in propria consegna per tempi lunghi una persona arrestata. Dicevamo l'altra volta, il posto peggiore dove una persona può restare non è tanto il carcere, ma la cella di sicurezza. Perché? Perché in carcere, che pure il posto più brutto del mondo, la trasmissione, questa trasmissione c'è per questo motivo, per denunciare che è il posto più brutto del mondo, però in carcere ci stanno altri detenuti, ci passano tante persone, stanno gli educatori, i psicologi, cioè anche personale civile a cui uno in qualche modo si può appellare, e in realtà non sempre le guardie del carcere hanno, diciamo, possono fare quello che gli pare perché hanno occhi indiscreti che le guardano. In una cella di sicurezza non c'è nessun altro che non le forze che ti hanno arrestato, le forze pubbliche. Se è una caserma dei carabinieri ci stanno solo carabinieri, se è una commissione di polizia ci stanno solo poliziotti. Questa è la realtà triste, e non lo diciamo noi, l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella sua commissione per la difesa dei diritti umani dice: attenzione, bisogna fare in modo che nei paesi non si mandi la gente, non stia più di qualche ora nelle celle di sicurezza di chi li ha arrestati, perché lì, siccome ogni arresto avviene necessariamente ed umanamente, perché è così che funziona, quasi sempre gli arresti vengono dopo una colluttazione in maniera un po' agitata, è normale che sia così, è ovvio che sia così, è umano, gli esseri umani, ma anche se è arrestato un cane randagio c'è colluttazione, ovvio, no? Nessun essere vivente vuole andare a finire in una gabbia, anche un uccellino si cerca di dimenarsi, di arrabattarsi per non andare a finire in gabbia. Questo è il fatto più umano del mondo, per cui è del tutto pericoloso fare in modo che chi ti ha arrestato dopo una colluttazione, grande o piccola che sia stata, ti tenga in propria mano, perché intanto ti porta, quando stai chiuso di una cella di sicurezza, te ne dà di santa ragione. E per questo motivo e per altri motivi, a volte per farti confessare, a volte per altri motivi, insomma, il pestaggio è assicurato. Quindi basta verso le istituzioni, verso il Parlamento, bisogna chiedere che modifichino quelle leggi del testo unico di pubblica sicurezza, che tra l'altro risalgono al 1930, in pieno periodo fascista, il regime fascista, e si cambiano dicendo, per esempio, basterebbe due righe dicendo: una forza sicurezza, l'arrestato non può tenerlo più di 2 o 3 ore, perché in modo, in 2 o 3 ore, insomma, il pestaggio è abbastanza limitato, si può ridurre a 2 ore, 1 ora anche. E poi portarlo, consegnarlo subito o comunque a quel punto portarlo in procura, portarlo appunto oppure far venire subito l'avvocato, insomma qualunque cosa che rompa l'isolamento di questa persona in mano di chi l'ha arrestato. Questa è la prima cosa da fare come pressione verso gli organi legislativi. La seconda cosa, quella più importante, quella da fare da subito, perché quella di chiedere la modificazione del testo unico di pubblica sicurezza ci vorrà tempo, perché proprio perché è stato scritto il regime fascista, voi sapete che anche al di là delle tessere che si hanno in tasca, al di là delle manifestazioni eccetera, pur nessuno si dichiara fascista oggi dei parlamentari, tuttavia quasi tutti, gran parte dei parlamentari hanno un feeling, non gli dispiace come il fascismo esercitava le sue diciamo le leggi, appunto la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico. Questo è il problema, e quindi la prima cosa da fare è, per cui ci vorrà tempo per ottenere quella cosa, invece la cosa da fare da subito è scendere per strada. È inutile strillare, ma non una volta tanto, è inutile strillare le cose che si stanno seduti davanti al computer, bisogna scendere per strada. I commissariati dove stanno? Per strada. Le tenenze dei carabinieri, le case dei carabinieri dove stanno? Per strada. Bisogna andare per strada, bisogna essere presenti davanti a questi luoghi, perché lì la gente entra viva e spesso esce morta, e allora bisogna stare lì. Lì si esercita una funzione di sorveglianza popolare e soprattutto di deterrenza verso chi vuole esercitare il pestaggio, perché quando ci stanno persone fuori, insomma, chi sta dentro sta attento, ci si guarda un po' prima di pestare, perché sa che le urla possono essere sentite, perché la notizia può uscire fuori, perché insomma la presenza di occhi indiscreti è veramente l'unico modo per salvaguardare la vita degli altri. Quindi quelle energie non vanno sprecate in tutte queste cose, si stanno facendo questioni, cose istituzionali veramente di poco conto, senza un obiettivo preciso, se non quello di urlare galera o processi. Non servono i processi, l'abbiamo visto con Genova, 14 anni sono passati, 13 anni e mezzo sono passati, i processi 10.000, stanno tutti fuori. È notizia di oggi che il procuratore presso la Corte di Cassazione, a proposito di Colucci, il capo della Digos di Genova, che è stato scorporato dagli altri, viene e oggi aveva la cosa in casa, iniziava il ricorso in Cassazione. Ha detto che insomma quelle cose lì le faceva il CIE di Pinochet, ha detto lui, il procuratore presso la Corte di Cassazione, le faceva il CIE di Pinochet, e hanno fatto a Genova, però i processi non hanno dato ragione ai ragazzi e alle ragazze colpite, maltrattate, torturate. E allora è inutile attribuire ai processi la possibilità di, non sta lì la verità, la giustizia sta per strada, la giustizia sta sempre per strada, è sempre stata per strada e sarà sempre per strada, perché è giusto, perché lì sta la rivoluzione francese, quella inglese, tutte le rivoluzioni o comunque le lotte per affermare un po' di giustizia rispetto a quella totalmente negata, e sono state realizzate per strada. Per strada ci stanno appunto le caserme, i commissariati con le celle di sicurezza, dove le persone vengono pestate. Lì bisogna fare in modo che avvenga la presenza delle persone, altrimenti sono chiacchiere, e le chiacchiere, come sapete, non cambiano assolutamente nulla. Bisogna riprendersi le strade e bisogna fare pressione verso questa gente qui, in modo che potremo avere la possibilità di non avere più situazioni uomini e donne trattate come Stefano Cucchi. We'll be right back. you care. Walk away. Walk away. Allora, 15:27, volevo leggere alcuni pezzi di questa lunghissima, in questo articolo lunghissimo che ha scritto Valerio Spigarelli. Valerio Spigarelli era stato fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, il presidente dell'Unione Camere Penali. Più volte abbiamo letto le posizioni che l'Unione Camere Penali, che sarebbero gli avvocati difensori, quelli che difendono gli imputati, però sulla materia penale, non il civile, quindi quelle che insomma difendono chi poi va in galera in qualche modo e ci rimane. E sotto la presidenza di Valerio Spigarelli, l'Unione Camere Penali, cioè l'associazione di tutti gli avvocati penali, penalisti, appunto, hanno messo su un osservatorio sulle carceri, un'iniziativa interessante, perché loro possono entrare in carcere per andare a trovare, a parlare con gli assistiti. Poi ovviamente, essendo un'associazione importante, gli avvocati, insomma, anche i potenti a volte, quando accadono nelle maglie della giustizia, hanno problemi di trovare gli avvocati importanti, e quindi hanno chiesto anche di entrare in carcere al ministero, che gliel'ha concessa. Hanno fatto un giro per le carceri, hanno fatto anche diversi un'inchiesta fatta abbastanza bene, in cui si mettevano in luce tutte le vergogne e le inadempienze anche rispetto alla Costituzione, rispetto ai diritti dell'uomo, rispetto a tutto, insomma, delle carceri italiane. Poi Valerio Spigarelli, appunto, adesso è stato sostituito alla presidenza dell'Unione Camere Penali da un certo Migliucci, anche lui molto bravo, e Valerio Spigarelli fa parte della giunta e continua, e ha scritto, e a proposito del caso di Cucchi ha scritto queste parole. Vi leggiamo una parte del suo documento perché è abbastanza interessante. Lui affronta, anche lui non si sofferma sul caso specifico di come andare il processo, ma affronta in tema più generale. Dice: col caso Cucchi si dimostra ancora una volta, per l'ennesima volta, che in Italia esiste la tortura. Ecco che dice lui. Chissà parli, dice il presidente del Senato sul caso Cucchi, sembra un invito alla delazione più che una invocazione a rompere i muri di omertà. E invece no, io parlo e dico al maresciallo e a tutti i sepolcri imbiancati che hanno detto la loro sul caso Cucchi, che io so. Qui riecheggia un po' Pasolini quando, ricordate, disse: so chi è stato ma non ho le prove, a proposito delle stragi di Stato. Continua a Spigarelli: so che non è vero che in Italia non si tortura, intanto per prima cosa. So che lo Stato, come sa lo Stato, che torturò i sequestratori di Dozier durante gli anni del terrorismo, e non solo non ha mai accertato le responsabilità, ma non ha neppure chiesto scusa. So che c'era un funzionario dello Stato talmente bravo a torturare che era stato soprannominato De Tormentis. So che lo Stato non smise di torturare dagli anni 70, perché lo fece anche a Genova nel 2001, a Bolzaneto in particolare, e lo dicono tutti, ma pure a Napoli un anno prima, e questo non lo dice nessuno. Io so che i giuristi in questo paese, di fronte al caso Cucchi, dovrebbero strepitare, perché il reato di tortura, quello vero, rischia di non essere mai introdotto. Poi continua, perché ovviamente è fatto come una ringa, sai, vedete, gli avvocati hanno le parole facili, e continua, è molto lungo, però più o meno gira intorno a questo: che in Italia esiste la tortura. e arriva alla fine alle carceri speciali, parla della Cayenna, della Sinara, eccetera eccetera, poi arriva a dire questa cosa qui. Sì, no, scusate, se la procura di Roma, quella che ha svolto l'indagine sul caso Cucchi, voleva indagare su altre persone rispetto agli imputati e persino su quelli fare indagini integrative, non era il caso di farlo a mezzo stampa. Lo so io, lo sanno tutti, cioè, è una cosa che si è risaputa, e quindi venuta meno anche la procura di Roma a un compito che poteva svolgere. Io so infine, e tutti i giuristi degni di questo nome lo sanno, che è tortura, qui mette le virgolette, che è perché lo prende dalla dichiarazione dell'ONU che abbiamo letto più volte, qualsiasi atto è tortura, dice l'ONU, qualsiasi atto con la quale sono inflitti a una persona dolore e sofferenze acute, fisiche o psichiche, puntini, per qualunque motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore e tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale. Ecco, mette in luce questo aspetto che quando il Parlamento italiano, che è veramente diventato, non ha mai brillato di acutezza, però è diventata una cosa becera negli ultimi anni, quando hanno discusso perché a livello internazionale fanno pressione, l'Italia è uno dei pochi paesi che non ha il reato di tortura eccetera eccetera, hanno cominciato a discuterlo, hanno preso un testo base partito non mi ricordo da chi e l'hanno stravolto completamente. L'ONU quando ha fatto le dichiarazioni dei diritti dell'uomo, in cui è compreso, dice, ogni paese è invitato, è obbligato a introdurre nel proprio ordinamento penale il reato di tortura, ha fatto la declaratoria, cioè che cosa si intende per tortura, quello di estorcere qualunque pressione fisica o psichica volta a ottenere informazioni. Quindi anche l'interrogatorio, quello che vediamo in tutti i film o che molti di noi hanno attraversato, quello che ti sbattono, anche non ti danno le botte, ti sbattono la lampada in faccia, ti cominciano a sussurrare nelle orecchie che avrai tantissimi anni di galera se non confessi subito, ti cominciano a dire che altri hanno parlato mentendo invece che altri hanno già confessato e quindi tu sei rovinato, che i tuoi amici ti stanno vendendo, ti fanno stare in piedi ore e ore e ore. Tutte queste cose che esistono quotidianamente in questo triste paese sono tortura, e l'ONU l'ha specificata nella sua declaratoria. E poi mise l'altro, i due punti erano questi: uno, qualunque pressione, anche quella che i magistrati a volte più democratici dicono se non parli subito ti farai anni di galera, ti farai l'ergastolo, quella è tortura perché è una paura, un terrore psicologico, non fisico ma psichico, quindi più grave, volto a ottenere delle confessioni, e non si può fare, è tortura. Poi cioè, si può pure fare, l'Italia lo fa, ma l'Italia tortura, diciamolo, non c'è scritto sulla Costituzione che l'Italia può torturare, ma l'Italia, quelli che hanno firmato, cioè quelli cui i partiti di cui fanno parte hanno firmato la Costituzione, in realtà torturano. Ora il problema è che l'altro punto centrale, quindi primo questo, qualunque pressione volta a ottenere informazioni si chiama tortura. Il secondo punto che ha messo l'ONU è quando queste pressioni vengono inflitte da un funzionario pubblico o da qualunque altra persona che agisca a titolo ufficiale. Quindi non se io, libero cittadino, do botta a un altro, quella non è tortura, quello è maltrattamento. Ci sono già 1000 articoli del codice che puniscono chi mena un'altra persona e finisce lì, non è che manca. Se invece lo fa un funzionario pubblico o qualcuno a nome del funzionario pubblico per estorcere informazioni, quella diventa tortura. Questa è la tortura, non altre cose. E quindi riporta questi due punti, perché ovviamente essendo lui un avvocato non è uno stupido, ha centrato, e questi sono quelli che il dibattito parlamentare, di quelli che si chiamano volgarmente parlamentari, ma è chiaro una volgarità, oggi è quasi un insulto dire parlamentare, perché quelle cose che cioè non sanno manco fare 2 più 2, questa cosa che era banale perché bastava leggere le 10 righe della dichiarazione dell'ONU, non sono 500 pagine, sono 10 righe, e si capiva che i due punti centrali l'hanno subito tolti, e quindi non è più niente. Quello di cui si dibatte il Parlamento è una cialtroneria come tante, come quando dicono noi facciamo la lotta alla mafia, in realtà non fanno la lotta alla mafia, non è che c'è una trattativa, c'è un accordo totale, permanente, e se è in corso, perché la TAV, perché cos'è se non attività mafiosa, e le grandi opere in Italia sono tutte così, e i palazzinari non sono mafia, quindi non è che c'è la trattativa, c'è un accordo e una collaborazione in corso tra organismi dello Stato, imprenditoria, banche finanziarie e mafia. E queste, anzi, queste sono la stessa cosa in realtà. Continua Spigarelli. Dice e ricorda a Spigarelli che le parti che ha riportato dell'ONU, questo è la convenzione che l'Italia ha sottoscritto, ha firmato 23 anni fa. E invece quello che discute adesso il Parlamento, dice Spigarelli, è cosa assai diversa, quello che dicevo anch'io. E poi vabbè, infatti anche lui, appunto, questo dire io so, ma poi io so che fino ad oggi la tortura non è reato, perché ci sono apparati dello Stato che non vogliono che questo avvenga, perché la temono il reato di tortura, quello vero, perché sanno perfettamente che anche in Italia si tortura. Io lo so, virgola, ma non è una maniera pasoliniana di dire, ha capito che ha usato la prosa tipica di quel famoso, appunto, scritto pasoliniano. Io lo so perché su ognuno dei fatti che ho citato, poi ne ha citati tanti quando ha cominciato da Dozze, da Genova, eccetera, ci sono prove, perché ognuna delle opinioni che ho espresso è fondata sul diritto positivo, quindi sulla constatazione del fatto. Io non chiedo delazioni, non ce n'è bisogno, è tutto molto chiaro. Chi mistica mastica senza scoppiare, chi mistica traffica con l'ardila, chi mistica mastica senza scoppiare, chi mistica traffica con l'ardila. Allora, oggi, appunto, questa settimana su molti giornali si è parlato molto, appunto, il caso Cucchi per alcuni è diventato appunto l'affermazione, dimostrare, un'ennesima dimostrazione che in Italia c'è la tortura e viene praticata, anche se non c'è una legge che la vieta, eccetera, eccetera. Si porta, ad esempio, Luigi Manconi, porta anche il caso di Mastro Giovanni, quella morte tremenda, perché ore e ore di sofferenza ci sono. Purtroppo si sono sapute queste cose, perché in quella lui è stato sottoposto forzosamente a un TSO semplicemente perché sulla bicicletta andava in una strada contromano, cosa che fanno tutti in bicicletta, ovviamente, no? Tutti, ma proprio tutti e tutte, e guai a chi dice di no, quando vanno in bicicletta fanno dei pensi sul marciapiede, in contromano, perché la bicicletta è più snella, è per quello, no? Ecco, Mastro Giovanni è stato fermato perché appunto era in viso, era un anarchico, quindi in viso ai carabinieri, che l'aveva più volte, anche per un passato che aveva, passato di tutto rispetto ovviamente, però che non piaceva ai carabinieri, forse per questo, quindi faceva cose buone, e quindi anche è stato preso, gli è stato imposto un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio forzoso, legato su un letto, non aveva fatto atti di violenza nemmeno durante l'arresto, e la cosa è stato messo senza mangiare e bere, 58 anni, finché dopo ore e ore legato nel reparto di psichiatria dell'ospedale pubblico a Vallo della Lucania, dopo 82 ore è morto, abbandonato alla sofferenza. Siccome c'era una telecamera in quel reparto di psichiatria, è chiaro che si è visto questa scena veramente allucinante. Quella non è tortura, è qualcosa di peggio, è una cosa che nemmeno i paesi più criminali hanno, le forze dell'ordine più criminali hanno veramente, veramente allucinante. E poi Luigi Manconi dice allora in Italia c'è la tortura, e quindi continua questo dibattito, ma non sortirà niente, perché il Parlamento, tutti quelli che stanno al Parlamento, poi tranne queste, ci sono sempre le eccezioni, ma le eccezioni rappresentano l'1, il 2%, il grosso del Parlamento, perché se è un'autodifesa e stanno a fare in modo che non... Che non si colpiscano le forze dell'ordine, perché intanto le forze dell'ordine sono un bacino elettorale notevole, perché sono tanti, ovviamente votano, perché fanno votare tutte le famiglie, il circondario, soprattutto nei quartieri popolari, ma soprattutto nei piccoli paesi, nella periferia, nella provincia. Le forze dell'ordine hanno un potere anche abbastanza forte su tutti gli altri, sui commercianti, e quindi invitano a votare. E quindi è una bacina elettorale notevole che nessuno se li vuole inimicare, e allora tutti accondiscendono, ed è vergognoso questo fatto, no? Vabbè. E l'altro, a parte oltre il fatto della tortura, l'altro elemento che è comparso in questi giorni su vari articoli è il discorso dei bambini che nascono e vivono in carcere i primi anni. Repubblica ha dedicato dell'11 ha dedicato più articoli a questo fatto dei bambini in carcere. Come se Repubblica venisse da così, si fosse improvvisamente accorta, viene da un altro paese e si è improvvisamente accorta. Questa storia dei bambini in carcere in questo paese è una cosa che ha fatto urlare tutte le persone di buon senso, ma non ha sortito un effetto. Semplicemente per questo, non perché diceva come non sono capaci a fare una legge per far stare a casa le donne con i bambini. Certo, infatti c'è stata la legge Finocchiaro permette alle donne che sono incinte e hanno un bambino di stare agli arresti domiciliari fino a che il bambino ha 3 anni, prima adesso 6 anni, insomma, secondo queste variazioni di legge, cioè per vivere con bambini in una casa tranquilla, eccetera eccetera. Solo che questa legge, come tutte le leggi italiane che riguardano la popolazione detenuta, deve accettare le eccezioni che ci sono, e le eccezioni sono la Cirielli, la legge più infame mai fatta, proprio di natura fascista quella, chiaramente, la Fini-Giovannardi altrettanto fascista pure quella, e perché appunto la Cirielli sulla recidiva, le donne che appunto recidive non possono utilizzare quella legge che permette di andare agli arresti domiciliari con i propri bambini e quindi stanno in carcere. Anche quelli, appunto, quelli che chi ha avuto la condanna per traffico internazionale di droga, cioè per aver partecipato a un'associazione che pratica il traffico internazionale di droga, anche se è l'ultima ruota del carro, anche se non ha fatto niente, anche se, insomma, vi ricordate quelle ci hanno fatto pure un bel film, ora non ricordo come si chiama, in cui delle ragazze sudamericane in situazioni drammatiche di vita, perché la fame, la povertà eccetera, venivano contattate dai trafficanti, gli dicevano di ingoiare degli ovuli che contenevano droga, le mettevano su un aereo per venire in Italia o in altri paesi europei, e poi appunto questi ovuli venivano levati e quindi recuperata la droga, passata tranquillamente dalla frontiera, però ogni tanto, sia per caso sia soprattutto, ogni tanto si sfasciava questi qualcuno di questi ovuli, quindi quelle droghe potentissime, in genere la cocaina, devastava l'intestino, lo stomaco di questi ragazzi, e quindi andavano ricoverati in ospedale col fisico rovinato, in più ovviamente incarcerate per traffico internazionale di droga. Oppure a volte venivano anche vendute dai grassi spacciatori, perché dare alle guardie qualcuno di questi portatori di droga permette poi di avere altri viaggi gratis. Fanno così i grandi trafficanti di droga, ogni tanto per tenersi buone le guardie di frontiera gli regalano qualche, gli dicono arresta questo e quello, quelli fanno una bella figura, vanno in televisione, grande arresto, tanti chili di cosa, e poi passano altre tonnellate di droga, perché è così che funziona purtroppo il mondo. C'è una cooperazione, non c'è bisogno di indagare sulla trattativa Stato-mafia, t'ho detto, non è una trattativa, c'è un accordo continuo, un lavoro continuo, una unità di fatto di queste, perché se gli imprenditori, i banchieri, i finanzieri e anche organi dello Stato, così come la mafia, puntano al maggior profitto, se l'obiettivo è quello ed è unico, ottenere maggiori profitti dalle attività che si fanno, è chiaro che concorreranno, staranno pure in concorrenza tra di loro, però spesso concorrono allo stesso obiettivo di aumentare i profitti. Quindi le banche, la mafia, i finanzieri, gli imprenditori stanno nello stesso gioco, per cui non è che si ammazzano tra di loro, perché si trovano degli accordi, e questa è la normalità in un sistema capitalistico. Questo rapporto univoco tra strutture diverse del sistema economico, e la mafia è una struttura del sistema economico, dicono che è illegale, ma perché gli imprenditori, quanti sono quelli che applicano leggi quindi legali? Una minoranza, forse manco esistono. E i banchieri e le società finanziarie, e vabbè, insomma, va bene. E allora quindi questi, diciamo, dei bambini in carcere non ci hanno, perché le eccezioni, che ogni legge che si applica ai detenuti deve tener conto delle eccezioni, perché appunto la Cirielli dice tutte le persone recidive non possono godere dei benefici, e quindi vum, si azzerano i benefici, tra cui questa di stare agli arresti domiciliari con il proprio bambino. Lo stesso traffico internazionale di droga, si azzerano tutti i benefici, quindi anche questo, e tante altre cose. E allora stanno in carcere, continuano a stare in carcere queste donne con i propri bambini. E allora, se però poi i ben pensanti, senza facendo finta di non capire niente, oppure realmente non capiscono niente, come qui su Repubblica, addirittura due firme hanno detto: si calcola che i minori che transitano ogni anno dietro le sbarre siano 100.000. Buongiorno. In Europa 1,5 milioni. Le loro madri, assieme ai detenuti disabili, ai malati cronici, a quelli con disturbi psichiatrici, rappresentano un universo di cui si parla poco e a cui è negato il diritto ad una pena alternativa prevista dalla legge. Cara Repubblica, cari giornalisti di Repubblica, fate bene a indignarvi, perché figuratevi, fa bene indignare su queste cose, però non è vero, non dite che avrebbero che hanno un diritto negato ad una pena alternativa prevista dalla legge. La legge sì prevede una pena alternativa per queste persone, disabili, bambini, minorenni, eccetera eccetera, ma se non appartengono a quelle leggi criminogene, abbiamo detto più volte che i giuristi chiamano criminogene perché creano il crimine da un fatto che fino al giorno, per esempio, la recidiva, un fatto che esisteva, la recidiva è chi fa più volte lo stesso reato. Un ladro è chiaro che non può fare una volta solo reato, perché sennò meglio che non lo fa, che deve ogni tanto rubicchiare per tirar fuori, mette insieme il pranzo con la cena, quindi è chiaro che è recidivo. I piccoli reati in genere sono recidivi, i grandi no. E siccome sono i più colpiti i piccoli reati, un po' perché sono fatti appunto dalla plebe, insomma, e un po' perché sollecitano l'ordine pubblico. Cioè la gente, se vede che i ladri vanno in galera, li vede. Il potente non lo vedi, perché l'imprenditore, il dirigente di banca, non li vedi perché non stanno in mezzo a te, no? È chiaro. E quindi che tu metti in galera un imprenditore, non sanno manco di chi si parla, quindi non gliene frega niente. Invece se vedono due o tre ladruncoli portati in galera, dicono: bene, ora siamo più tranquilli. Ovviamente non è vero, perché non è da lì che viene il loro malessere. Comunque, quindi anche Repubblica zoppica un po' dicendo questa cosa. Non è vero che hanno negato un diritto. Hanno negato un diritto generico, ma la legge italiana, cioè la legalità italiana, ha prodotto, il Parlamento italiano ha prodotto delle leggi, quindi è questa la legalità, è quella della Bossi Fini, della Fini Giovannardi, della Cirielli, questa è la legalità italiana. Non è che può, non è stato negato niente. Ci sono delle leggi che fanno schifo, che sono peggio di quelle fasciste, perché diciamo la Cirielli è molto peggio delle leggi fasciste, la Fini Giovannardi è molto peggio delle leggi fasciste. Qui si è tornati indietro rispetto al codice Rocco per certi aspetti. I CIE sono molto peggio delle leggi del confino durante il fascismo. È molto peggio stare in un CIE che in un confino, è vero o no? Ecco, leggete le lettere dei confinati, è molto peggio stare in un CIE per condizioni proprio umane. Quindi capite come siamo messi? Questi hanno peggiorato addirittura le leggi del periodo fascista. Pensate come stanno messi questa gente che calca il Parlamento e che si dovrebbe vergognare. Non capisco come fa, se sono uomini, a farsi la barba la mattina, perché si devono vedere allo specchio. Forse vanno al barbiere, così non si vedono allo specchio. Va bene. Sì, e poi siccome devono far vedere che sono bravi, fanno l'elenco di tutti. Questa donna, Lili, ha 33 anni, 5 dei quali passati tra carcere e domiciliari, a pagare i suoi errori sono stati anche i figli. Poi queste cazzate qui, che vuol dire a pagare i suoi errori sono stati i suoi figli, in termini proprio inaccettabili, vabbè. E questa è Repubblica, pensate agli altri. Gli altri gongolano, dicono: ma sì, buttate la chiave. Lei dice, qui Repubblica dice: no, è una vergogna, però non è che dice che se la prende con le leggi che la tengono in galera, perché non è che è un sopruso. Il sopruso è della legge, non dei secondini che la tengono in galera. Pure qui bisogna dare a ciascuno le responsabilità. noi, sapete, chi vi parla, perché per tanto carcere che ha fatto non amo i secondini, questo lo potete immaginare. Tuttavia, secondo me, sono molto più responsabili di quello che succede nelle carceri italiane chi calca il Parlamento italiano che non i secondini, capite? Il vero nemico sta là, sta nel Parlamento italiano, perché sono dei vigliacchi a dir poco. Il secondino pure, ma almeno quello conta di meno. Insomma, e questa è la questione. Poi non so, ci stato addirittura 3 articoli Porta Repubblica sul fatto dei bambini in carcere, anche quest'altra. Ecco i casi più gravi, in carcere senza nessuna assistenza, ecco i casi più gravi, e giù a regalare quindi questo qui, in attesa di medici, cure medie che non vengono. Ma come possono venire? Intanto il carcere non è un posto dove vai per essere curato, sia chiaro. Il carcere deve essere stato fatto per farti soffrire, per farti star male, per farti ingoiare il rospo, per farti sentire annichilire. Cioè, la teoria del carcere, di chi ha inventato il carcere, che poi non è che l'ha inventato nessuno, è stato un proseguio delle pene, dal supplizio, l'impalatura, il tormento, le torture che faceva l'Inquisizione, la Chiesa Cattolica che ha sempre dato il via alle peggiori torture possibili e immaginabili. Questo è bene che si sappia, come tutte le altre religioni sono sempre state, come dire, sollecite a infliggere punizioni corporali alle persone, perché con le loro, tutte le religioni sono impiantate sulla separazione tra corpo e anima, e quindi punire il corpo, far soffrire il corpo, secondo più o meno tutte le religioni, era pulire l'anima, torturare il corpo per pulire l'anima. Questa concezione è un po' demente, ma d'altronde ognuno c'ha su. Poi chiaramente dopo a parole dicono: no, non è vero, noi siamo con i poveri per migliorarli. Insomma, la realtà ci dice un po' il contrario, poi fate come volete. Insomma, e poi l'altra ancora, non solo, il terzo articolo di Repubblica sugli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Qui pure Giuseppe Del Bello, che firma questo articolo di ieri, di Repubblica dell'11 novembre, insomma dice: è un disastro. Parla della psichiatria nel napoletano, in Campania, a Napoli appunto, dove c'è un OPG, uno dei peggiori, dove c'è l'Ira di Dio, poi lì vicino c'è Aversa, Sant'Eframo a Napoli, dovrebbe essere chiuso, e invece sviluppare appunto gli OPG in qualche modo regionali, più piccoli, che dovrebbero però favorire, diciamo, le cure domiciliari e non la reclusione, però questo dovrebbero cambiare la legge. Pure qui c'è un punto centrale a tutti questi discorsi, quello della sicurezza. Queste persone stanno negli OPG, non perché hanno fatto qualcosa, stanno in carcere, ma perché rappresentano appunto un pericolo, secondo qualcuno che li ha bollati come tali. Cioè non rispettano le norme di sicurezza, non permettono di essere sicuri che loro si comportino bene. C'è la l'idea che possano produrre fatti gravi, e quindi li si colpisce pesantemente. Questo è quello che permette. Ora, togliere gli OPG, adesso è stata spostata a marzo, no? L'altra volta l'abbiamo parlato, la chiusura degli OPG, questi 6 nazionali, per farne tanti piccoli regionali, che non abbiano più di 20 posti, e che permettano anche la cura domiciliare, cioè la possibilità di venire la mattina, prendere le cure, fare la terapia eccetera, e poi tornare a casa. Ecco, tutto questo qui dovrebbe avvenire, non sappiamo ancora, è stato già il terzo rinvio, vediamo se a marzo probabilmente no, perché molte regioni stanno indietro, non hanno manco fatto i fabbricati, come fanno, comunque sia, vedremo che succederà. Dovrebbe partire il progetto terapeutico riabilitativo individuale, pensate un po' le parole tante, come gli piacciono le parole grosse, no? Le grandi parole, leviamo i manicomi, questi sono manicomi, gli OPG sono manicomi criminali, cioè ci si entra se uno ha fatto un piccolo reato, ma spesso la gran parte ci sono entrati perché hanno, durante appunto un fermo di una guardia, hanno dato in escandescenza, cosa abbastanza naturale, per quello, cioè cosa che si fanno 2 mesi di galera, seppure va male, e sono stati portati in un OPG, da lì non esci più, perché ci vuole uno psichiatra che dica: è sano di mente, e lì dentro è impossibile essere sani di mente, non lo sono nemmeno gli infermieri, gli operatori e i medici, figurate se lo possono essere i pazienti trattati in quel modo indegno, perché sono state viste le immagini poi, no? E quindi va bene. Allora, il progetto terapeutico riabilitativo individuale, che ovviamente dovrebbe partire il 31 marzo, ma non c'è speranza che parte, ha permesso appunto di fare tutto questo discorso che però, se non viene tolto quell'elemento di legge, che anche, quindi, anche questa è legalità, che dice che diciamo, la pericolosità sociale è quello l'elemento centrale, no? La pericolosità sociale, che significa che tu, essere umano, anche se non hai fatto nulla e non lo sa nessuno quello che farai, perché il futuro non lo sa nessuno degli uomini su questa terra, lo sanno gli dèi per chi ci crede. Chi ha inventato gli dèi ha rimesso a loro il conoscere il futuro. Sulla terra qui nessuno sa che succederà in futuro, però sì, tranne la legge figura, è chiaro che è divina, no? Perché questi imbecilli credono ancora a queste cose. Purtroppo la legge italiana c'ha molte ascendenze. Se uno dice io giudice prevedo che tu commetterai dei giudizi, vuol dire che sei amico degli dèi, perché sai che questo che succederà domani. E la pericolosità sociale è questa, che si sta espandendo a tutti i reati, si sta espandendo il fatto che la giustizia, tra virgolette, dice noi prevediamo che queste persone commetteranno dei reati, perché così, perché ci piace, perché ci ha illuminato qualche dio. Questa miseria qui umana esiste su questa terra, e che ci vogliamo fare? Le persone negli OPG sono devastate totalmente, molto più che quelle in galera. Ho intanto qualcuno si incazza, ed è successo a Firenze, dove all'OPG di Montelupo Fiorentino un detenuto dà fuoco alla cella e un agente si è intossicato di fumo, quello però si è intossicato di OPG, che è molto peggio. E vabbè, questo per dire che avviene su dall'intent abbiamo trovato questo. Si è incazzato il segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria, il SAPPE, che ha detto sì, è vero, bisogna chiudergli gli OPG perché i nostri detenuti si fanno male, invece quelli che stanno i reclusi, i nostri operatori, dice lui, le nostre guardie si fanno male, invece i reclusi stanno bene. Vabbè, comunque queste sono le miserie di questo paese, ma non è che dobbiamo buttarci giù anche questa cosa. Ora, quando li faranno e li faranno, e quindi vicino a noi in ogni casa a Roma, quindi ci sarà anche a Roma, a Milano, in tutti i paesi, tutti i capoluoghi di provincia ci sarà un micro OPG, più di uno, ecco, bisogna anche lì trovare la strada per andare lì e dire la nostra. E soltanto se ci presentiamo tutti i giorni lì potremmo fare qualcosa di serio. Allora, manca un minuto, siamo in chiusura, quindi la trasmissione è finita. Volevamo dirvi invece una bella notizia, la diciamo alla fine dopo tutte queste brutte, ma le brutte non era colpa nostra, non è responsabilità nostra, anzi l'invito a muoversi, a darsi da fare, a muovere i piedini è proprio per evitare queste brutture. C'è invece una bella notizia, questa sì è merito nostro, diciamo, è uscita Scarceranda, sono arrivate proprio qui in radio questa mattina e quindi noi chiediamo a tutti e tutte coloro che stanno fuori di venirla ad acquistare una copia in radio. Si può venire in qualunque ora, c'è sempre qualche trasmissione, ovviamente dalla mattina fino alla sera. Agenda più quaderno, come al solito, costa 12 euro. Considerate però che